Sì, c'è qualcuno in ascolto. CQ10. CQ10. Non rispondi, no. Sì, mi calo? Ma sempre una roba in bocca, vai. Sto aspettando. Cos'è? Sto aspettando. Cazzo, via. Fateci rigigioni in di Gil, dicini fra poco. Tanto riposta non mi ne dà dove. Ma così. Ma poi quando me lo dì, ti dico no. A volte la bili. Sto chiedendo, ce lo dico. Ho chiesto, ma se ne fanno sapere, poi sta anche a poter rispondere perché lo dico. Ok. E dopo si può chiamare la brezza, che la puni subito, non usani che non è così. Vabbè, capo. Per venerdì qualcosa ce l'ho, per quello te l'ho detto. Pronta. Dovrebbe essere pronta per venerdì. Così che la giù fatto già bene, in modo che poi all'altra settimana non mi assigliano di se ne ho. Io chiedo, sto chiedendo, mi dicono di sì, ti faccio sapere. Scappa di Rogero. Giulio, dollaro. Ti dai caduto il dollaro. Ah già, è vero. Allora euro lo dovremmo chiamare. Ti tira luce in tu, cambia il tempo. Neanche a fresca essere voi. Mi sono dimenticato di chiedere però l'altro giorno. Però, fresca proprio da fare il padello oppure da. Ma mettete la tua asciugare lì. Ah. Cosa? Questa qui è un po' salata di mare. Ma non è roba mia? È mia. Ah, se si dice mia figlia. È ancora annaia qui. No, veramente, questa tagliata è la giusta, questa deve rimanere nella gola. Sì, addirittura. Sicuramente come ce l'hai aperta, sta asciugando. Vabbè, buona, però è un po' più salata. Cappa. Vedi, c'ho del guanciale, ce ne vuoi. Magro, naturalmente, non grasso. Nel frattempo è così, mi sono mandato il video, la foto, mi ricordo. È un casino questo tempo, un po' fa freddo, un po' fa caldo. Cazzo, allora, vedi, quando è così va bene, asciugano bene. Non si capisce niente, Emanuele. Adesso io abbasso la temperatura da domani, a parte cambia l'orario sabato. È meglio, perché guarda, gli smalti così è un casino, per chi come me la fa al naturale, è un casino, chi c'ha la cella no, però chi la fa al naturale è un casotto quando ci sono smalti troppo forti. Basta fare che lo io la cella, tanto lui. E immaginaggio. E tu già ce l'hai quel posto là, se poi gli avvenissati una piccata di rivi. Allora? Sì. No, ma la metto su il magazzino. Magazzino, bisogna vedere cosa c'è in questo magazzino. Se c'è roba di benzina, motorini o cose del genere, non va bene. Ma già benzina, già benzina. Cosa ne so che cosa è? C'è il burro della moto, hai detto? Se ci stavi mettendo la moto, Manuele, pari così, tu non lo intendi, ma ti pari così. E magazzino su, ma mica in garage. Andi su. A casa. Anche dentro la baracca. Cosa la baracca? Se è chiusa bene, non c'entrano animali. Beh. Anche lì va benissimo. Ma anche lì la te va bene. Nello, in quello sgabuzzino che hai. Sì, anche qua va bene. Tanto tu non avendo riscaldamento non si sta bene lì, capito? Ma per caso, ma per caso, per caso, per caso, per caso, per caso, per caso, per caso, per caso, per caso, per caso, per caso, per caso, per caso, per caso, per caso, per caso, per caso, per caso, per caso, capito? Secondo la giornata che sono faccio un po' di umidità e risolvo comunque, però se c'è solo il caldo caldo non fa. Ma a proposito, ti dici Giovanni che avevi tutto e dice che quando sta lì era sì, non ci ho guardato, cioè avevo visto la cinepresa, avevo visto quella con le cassettine. Ma quelle VHS? Super 8 il Balsigiamma. Ho capito. Perché c'era tutta roba in un carrello di legno. Ci deve essere, sì, ancora qualche disco. Sto quello che trovo, già che l'ho adottato, già lo sai, non ne faccio niente. Ma se non fai niente anche di quel Super 8, possiamo fare anche qui. E quello è bello, c'è anche la sua custodia in pelle, non so, te l'avevo fatto vedere. Non so, vabbè, anche se non funziona, lo metto nella bottinetta del gioco. No, che già funziona. Funzionava all'epoca, immaginati quanti anni è ferma. Sì, la già lo sai, lo lasciano, fanno l'altra dei più. Quando lo rimetti più in funzione, no, non tanto più, ma da morire. E poi, non so, le cassettine non credo che si trovano più. Le cassettine, già le trovi, però ho detto che da internet, sempre nel winter, ricordo, nei mercatini del winter, già le trovi, sì, cassette 68 già le trovi. E poi come le guardi? Devi avere un lettore con i cavi per trasferire il video. Ma non c'è l'autoparlante, è tipo, c'è il manico tipo una pistola, verticale con un grilletto, tu guardi dentro, capito? Mica va lo displino, cazzo, ma lo è, ci siamo bambini degli anni 60. Ma ci sono quelli che ci avevano anche il monito, che vedete? Magari numero negli anni 80 forse erano i scindichissi. Vabbè, anni 60 non penso, qualcosa in più sarà quello lì. Perché il Serie 8 si sta negli anni 70, non 60. E le prime sono, custodia in pelle, nera, sempre tipo le bozze di scuola che di una volta, te le ricordi che si piegava da una parte, poi c'aveva la farina, lo giravi e si chiudeva la borsa, te la metti così e... Vabbè, se in caso fanno la partita, mancate a casa lo più, guarda. A me non mi interessa neanche buone le vetrine, che cosa se me la fuggi. Ah, è piatto, facendo quella radio lì, lo stesso, se mai facciamo uno scambio con qualcosa che c'è tu, mi ha proposito K. E cosa? E già lo vediamo in verticale. Ah, già ti ho capito. K. Tanto quelli non li avevi dati, mi sembra. No, se così, certo dato. A te no, ma no. Lo sa, che li avevi presi tu, che li attendevamo, stavamo in posto. Adesso... Vabbè, ci salgo anche domani, dai. Ci salgo in soffitta e ti mando la foto. E poi c'ho altro sempre di quell'epoca lì. Andiamo a guardare. Vabbè, se tu sai, quello che c'è del vista, se lo metto da parte, tanto me lo pulisco, me lo metto anche a e la te l'avevo fatta vedere, però mi hai detto che quella roba lì non ti interessava, che ti interessava solo il giradischi, e radio a valvole. Non me lo ricordo, sinceramente non me lo ricordo, non l'avevo fatto vedere, ma c'è la proiettore. Ne avevo messa una in vendita qua della madre di centro, non so se l'avevi vista su Facebook. Ma c'è un po', mandami la foto se c'è sotto un telefono. No, non ce l'ho più nel telefono, io già è un mese. Vabbè, comunque, quello che tu per il vista ce la metto a parte, ma ora tanto ce la metto a vestire. Va bene. Sembra stava vendendo 70 euro mi pare, ma ce l'ha su Facebook, controlla sul marketplace. Ma lo dice mezzo, c'è la camera, lo dice sì. Ehi, aspetta che guardo se c'è ancora. Fai uno screenshot, ma va. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Hola, canale 10, c'è qualcuno? Attenzione, Natalino, ci sei? Attento, Gianni. Natalino, ci sei? Attenzione, canale 10! Avanti, come mi senti? Con le orecchie! Dai, comunque, il segnale l'ho messo più o meno lo stesso, dai, comunque, sono andato a 2 metri da terra, adesso è più alta. Ma stai usando l'apparato, quello che dà segnali, è tischio là, è tischio, non c'è che ci sia segnale, e poi... Cosa ci posso dare di segnale che arrivo di 9.30 la prima su DB è al massimo proprio, cosa ci vuole di segnale, anche se è aumentato non si vede. Ah ma non ho più ru, mi sembri una zoccola la manetta, basta. La manetta c'è con questi qua, questa la manetta, guarda c'è un trippo e fai fisco. Già, senza offesa, è troppo alta, basta, non mi piace, ciao Tony. Ma è troppo alta, già. È troppo alta, bassa. Che cosa? Ah Gianni, sto dicendo Tony. Ah, Antonino non mi ha detto nulla. Guarda adesso. Fai. Guarda, questo è amplificato, deve sentirsi l'amplificatore. Se non si sente non ti chiami l'amplificato. Provo, fai il passaggio già, scusa, riprovo. Vai già. Cosa? Fai un passaggio, va. Fai il passaggio più lungo. Guarda, c'è un trifo, già adesso la sapeva appena, l'ha tratto lo so più o meno, così dovrebbe andare bene. Va meglio, dai, come fa troppo alto. Oh, tu lì, ho un affare se ti interessa tra le mani. Se ti interessa fammi sapere, è abbastanza nuovo. Non so, poi se ti può interessare o meno. Ma sempre TV? No. Computer. Ah, il PC, ce l'ho. A parte quello che ho tomato, mio figlio me ne ha dato un altro. Ah, ok. Ma questo è un ottimo tuo PC. Cioè, metto che ce l'ha un paio di mesi, 3 mesi così, ha pagato internet 3,50, un affarone, siccome gli servono soldi, non c'è da mangiare questo qua, cazzo nessuno, non c'è da fumare, un po' disperato lo sta dando, non dico lo sta regalando quasi. Cioè? Come cioè? Non dico lo sta regalando quasi, e cioè il prezzo? L'ha pagato 3,50, 3,30, 3,50 se non mi ricordo, 150 euro. Chiedo qualcuno se interessa, io ne ho due, ma non ne accendo neanche uno, ho fatto un gozzo. Poco fa mi sono salvato l'antenna, mi ha giocato un uroga. Vabbè. Adesso è 2 metri più alta, qualche cosa di differenza, c'è poca roba penso. Oh Luca. Guarda che segnale. Eia. Ah, sempre lo stesso, sì. Non è che me ne accorgo. Segnale io poco ne guardo perché c'ho il baracchino messo di fianco. Non è dritto. Senti qualcosa, è nuovo questo computer, nuovo. Capo, c'è qualcosa. Io sinceramente se non l'avrei avuto l'avrei preso, ma cazzo ne ho due. Uno che si è accusato a nulla, ha fermato mio figlio e sono la fate nell'armadio, ho fatto il conto. Non ho tempo lui, se no cos'è là, ci ha fatto la luce. ci manda da Ghita, da Ghidasso, e mi chiama Tizio, mi chiama Caio, mi chiama Ciappro, non è come fermo. Adesso l'unica stasera che non puoi dire fermo, a me mi sono alzato l'antenna, fatto il gonzo. Avanti già. Anche io non ne uso, sto usando più il telefono del computer. Io poi sto entrando anche poco in frequenza perché sono troppo indaffarato, poi arrivo un taglio, mi devo preparare mangiare e poi sono stanco, quindi capisco, ecco perché. Comunque sì, una parte, quel prezzo già va bene. Cos'è? Windows se me lo chiedono? Scusatemi, boh, ho fame, mi alzo, dai. Mi alzo, poi sono uscito alle 5 alla lavoro, mi sono messo un po' in relax. Ciò fa, arrivo subito, io faccio, stavolta mangio boh, un pezzo di pane, un affettato, un po' di frutta, andiamo a farti male. No, affettato no, gli staccati, fanno male la notte. Luca, ti ho chiesto quanti, che Windows è, se me lo chiedono. Windows 10. Sì, è vecchio. Sono vecchio, ma tu Windows 7 è vecchio, 10 è, c'è l'11 adesso. Io c'ho il 10 ed è perfetto, un buon gioiello. Sono vecchio, ma c'è un PC nuovo, c'è 3 mesi di vita, 4 mesi mi pare. E mi dici che è vecchio. È vecchio, ma io so che c'è Windows 12 o 13 mi sembra. Ah, non si mina un cazzo. Allora, il brutto è l'8 e Windows 10 va bene, avete, ce l'ho e va bene. Poi c'è l'11 che è un po' così, il 12 è uscito, che dice che è un po' così, lo sta, è un bel pesante come sistema operativo. È buono, PC è nuovo, ma stai scherzando, fa gli aggiornamenti, fa tutto. Ma se hai fatto gli aggiornamenti, Windows 7 non fa più aggiornamenti, è vecchio. Io lo stavo usando ultimamente Windows 7, che a me va anche bene, lo conosco benissimo, so insomma la funzione. Il 10 un po' così, va bene, nel caso aggiorna, mi dai, arrivo su. Via, d'accordo, avanti già. Via. Vabbè, il mio io lo accendo ogni tanto, che se l'avevo comprato anche tutte le casse con l'amplificatore per cantare, tutto quanto non è più trattato, la caldo manca lì, se no, non è più trattato. Uso il telefono e via. Sì, anch'io spesso il telefono uso già, per parlare l'altro, entro. E via. Mi sono scaricato qualche ricetta per qualche impegnativa dalla mia email che mi ha mandato la dottoressa con la stampante. Ho dovuto comprare la cartuccia perché avevo finito l'inchiostro, cioè finito l'inchiostro. Allora la stampante che ci fate, mi devo comprare quella al laser adesso, o mi vendo questa mia che è nuova e mi compro quella al laser, perché ho, cioè, tutte queste fotocopie non è che le faccio, quando le faccio compri la cartuccia nuova, tu c'hai un mese, due mesi senza trattarla, si secca la cartuccia e si è fregato, ti dà una cartuccia nuova, capito? Infatti mi ha consigliato ogni tanto, anche se non la usi, fate una o due fotocopie così la tiri in allenamento la cartuccia, se no io mi si secca. E lo so che è così, ne ho avuto 4 o 5 io stampanti a casa. Vabbè, non c'era pericolo perché io stampavo anche le foto, c'avevo il coso per fare le foto, le fotografie, le stampavo direttamente io, capito? Usavo la carta lucida, però te le consuma un bel inchiostro. Lo so, il mio fa tutto, io mi stampo anche perché ho qualche cosa bella che c'ho nel telefonino e c'ha colori, tutto quanto. Però siccome ho visto quella laser e costa un po' di più, non me ne frega niente, vendo la mia e me la compro, giù con differenza, con laser c'è il toner che praticamente e tu dura anche 2 anni, figura, capito, non è che si secca, quindi mi va bene. E poi non è rumorosa, soprattutto è silenziosa quella laser. Vabbè, adesso vediamo se riesco a vendere questa qua, la metto su internet e la vendo. È nuova, guarda, vado via così mi compro quella laser. Io l'ho avuta laser, poi vabbè, se l'ha portata via la mia ex moglie, se l'ha portata a casa, perché vabbè, se l'aveva regalata al fratello e quindi se l'ha comprata nuova per Natale e quindi se l'ha portata via lì. Ecco. Andà bene, sì, perché a me ogni tanto mi scrivono qualche fotocopia o la ricetta di mandare alla dottoressa, io me ne faccio il cartaccio, ho capito. Sai cosa mi sto ricordando già? Ma non c'è bisogno, quello che hai fatto è tutto lavoro inutile lì. Poi col telefonino, farmacia, hanno la pistola, sparano e non c'è bisogno di consumare né carta, né cartucce, né nulla. Sì, lo so, l'impegnativa invece cosa posso? Alla prova c'è, ma non me la scarico cosa l'impegnativa, dove la topografia a cartone di libreria e me devo pagare 15, 20 centesimi o 30 centesimi che sia. Ecco, quando lo vuole, ce l'ho in casa, la faccio in casa. A me l'impegnativa non me la manda via Emilio, devo andarci io per farmela. Vedi? E io ho qualcosa in più, me la manda via Emilio, io da casa mia non mi muovo neanche. Mi muovo sopra dal farmacia e tira me le medicine, boh. Vabbè. Ogni dottore c'ha la sua riccosa. E sono un lavorato. Sai cosa mi sono ricordato? Ci stavo pensando già. Sono chiamati a Porotorce per la licenza di pesca. Allora ti dico io cosa è successo, io non l'ho mai fatto, non ci sono mai andato in persona lì. Io l'ho fatto in casa con computer e è andato a buon fine e pensavo che non è andato a buon fine, allora ho visto che siamo andati insieme per rifarmela e invece il risultato è positivo e ne avevo compilata io. Te l'ho detto io che ho fatto così, tu non ci eri arrivato, te l'ho detto io, ci ho detto io che avevi fatto così. Ci ho pensato io, ho detto guarda che tu sicuramente l'hai fatto ma non l'hai salvato, cioè l'hai salvato però non l'hai stampato, e quindi ci è rimasto nel computer, è come se tu l'avessi fatto, non l'hai stampato ma l'hai fatto. Niente, mi sono trovato cercando anche quello che in pratico facendo il documento, capito? Proprio la macchinetta, i fogli, però devo ritagliare il pezzo quadrato, è un piccolino, mica tutto il foglio, anche se non lo fanno lo foglio è. No, non ci ho capito, te lo vuoi fare piccolo. È un quadratino praticamente già, mica mi stappo tutto il foglio. Ma non ti conviene perché a dicembre scala devi rifare. E vabbè, ma io lo posso plastificare, capito che c'è la macchinetta. Ma ti chiedono tutto il foglio, non è che devi fare un pezzo, no? Non devi rimpicciolire ma fare tutto quello che c'è scritto. Ma io posso soltanto al limite fare una fotocopia, con la stampante, e uno me lo faccio il picciolino e me lo metto la plastica e l'altro quando lo rinnovarlo ti porto il vecchio. Cioè scade a dicembre così è. A dicembre sì. E al primo gennaio bisogna rifarlo. Comunque non ci stai andando a pescare. Non ho capito, sto andando a pescare. Ho detto ci stai andando a pescare. No già, ma è un fresi. Allora, ho detto che sono incasinato, impegnato da una parte all'altra. Ho pochissimo tempo, arrivo stanco, al baracchino sono che vuoi entrato. E fare commissioni qua, e fare commissioni là. E adesso domani c'ho la messa che è morto il cognato del mio figlio a Usini. E devo andare anche a Usini. Poi mio figlio si deve sposare a novembre o dicembre, non so come si sposa. Insomma, le commissioni che mi chiamano, a destra, a sinistra, manca, è un casino, non sto mai fermo. Io oggi ho avuto leggermente questa serata libera, meno male, mi sono messo da fare, mi sono abbassato l'antenna, sono tutti tirati vecchi, fratichi, li ho messi tutti a sagola nuova, messi tirati, messo aggiunto un altro palo e se l'è fatta. Adesso è tutta un'altra cosa. Allora io già sono abbastanza libero, finito di farmi le cose di casa, mentre mi apposto gli animali, poi sono libero, dai, mi riposo, canto, o esco, dipende. E vabbè, a me quando mi chiamano già non posso dire di no, e quindi tra parenti è la mia ex, quindi non posso dire no. E quindi domani devo accompagnare anche a loro. E vabbè, poi se si va vabbè a pescare, si va una giornata, insomma, un fine settimana, un sabato sera, dai, si può andare. Non so, verso a rimbrunire, stare fino a mezzanotte l'una. A pescare seppia adesso è bello, si muschi l'artificiale e andiamo a seppia, anche a Platamona va bene, in spiaggia. E adesso ci sono le seppie, capito? Le seppie vanno bene lì a Malai. Ah no, ci sono anche le spiagge a Platamona, dalla spiaggia. Anche Luca le pesca da lì, figurati. Le seppie sapevo un po', se l'ho presa anche l'11 in una serata. Ma io dico, mi hanno detto sempre che le seppie le fanno dove sono quelle luci potenti in mare. Perché lì sono quelle luci gialle, puoi fare, capito? E più freddo c'è e più ci sono le siepi. Quelle sono i calamari, non le siepi. Le siepie, anche se non c'è luce, ci sono lo stesso, perché io ho pescato in posti che quando imbruniva la siepe di Arudo e la siepia c'era sempre. Io andavo dalle 7 in poi e pescavo sempre. Io poi ho attaccato a Carino, ne ha pescato anche a Carino, ne ha pescato Franco, le ho portate io nel posto. E vabbè, poi si è sputtanato perché qualcuno ha buttato la seppia sopra il molo, ha lasciato il nero, hanno visto il nero e hanno cominciato a beccare seppie. Ma quindi metti quell'esca artificiale fluorescente per la notte? Ehi, se poi hai il flash è meglio, gli dai un colpo di flash e rimane fosforescente, quando tu la butti in acqua rimane accesa, no? Se gli dai un colpo di flash per un po' rimane accesa e li attira. Ma mio cognato andava lì, con il produttore si andava a calamare, che tempo che ripetiamo, va bene di madurimi. Lo so. E la portatore che c'è un posto, ma la chiesetta di Balai vicino, non di Balai lontano, quella di Balai vicino, lì sotto c'è un lampione grande che illumina la sala di cui fare da 100 watt, che illumina sul mare e lì si pescano sempre i calamari. E se noi ce lo portiamo noi, vi? Io porto uno di quelli faretti a pannello solare, sarebbe educare, guarda chi fuga e lo butta in mare. No, ci vuole la luce che rifletta sul mare e i calamari vengono attirati dalla luce, capito? Ho più attirati del mio faro a 200 watt, non ho capito, tutto a lente, luce bianca. Una volta siamo andati con le origini, eravamo al molo, c'avevo una di quelle pile che vendevano da 1500 candele, e dopo mi si fasciata. L'ho puntata in mare, ho visto una seppia, ho detto allontanati, dolci allontanati, cosa c'è che non vuole? Aspetta, allontanati! Cazzo, ho preso il cocco, cazzo, era giù su sotto, la seppia saliva su come vedevo la luce, io ho messo il cocco da sotto, era giù miliardo, già messo di seppia. Io l'ho visto molto, invece la seppia di giorno, grande, ed era punta a giglio, dell'acqua bassa, l'ho messo alla sardina, cazzo è andata su Giazzina, puzzinosa, me lo sono guardato come uno scemo, ma sono stato 5-6 secondi come un macro, ho detto, beh, adesso piglio la fiucina, ad abbigliare la fiucina, mi giro vera più. E partono a raggio, vanno piano piano, poi se si accorgono la cerchietta, buttano l'inchiostro e partono a raggio. E allora? Ma oggi non si sente neanche Natalino. Io ho chiamato stasera, nessuno mi ha risposto, sono andato anche su 23, non c'era nessuno, e niente, non lo so. Ieri abbiamo fatto le prove con Roberto e non c'è neanche tu. Chi è che ci ha sentito? Oppure Santiago 3 addirittura. Che prove? Le prove per l'antena tua? Oh, Roberto quello marrone rosso. Ah. No, anche tra mia, grazie a Dio, va sempre bene. Un arrigo li ho piazzato. Marrone rosso. Cappa. Entrava tempo fa. Ma dove? In campagna? No, no, lui modulo a Sassari. Ehi, dai, città. Ah, ti sto parlando di più di 30 anni fa. Allora io mi confondo barone rosso con barone giallo. Quello falegname qual è barone rosso? No, il falegname è barone giallo, la Tirozzi. Abitava proprio nella piazza dove c'era Ginko, aveva messo l'antenna, quella piazzetta là. Ecco, però la falegname io ce l'aveva in zona via Vittoria dietro. Sì, era via Sardegna, c'era via Muroni, e veramente sembra tutti. Perché c'era anche andato a fare la meglio sua. Ho capito, quello lì l'avevamo trovato una volta e ci aveva detto che non poteva più modulare, che la moglie non voleva, eccetera. E invece Barone Rosso chi è? Non me lo ricordo più. È Roberto Barone Rosso. Roberto Pinna. C'è il negozio dei vestiti per noi quando non ci siamo più, Mauri. Agenzia? Yes. Ho capito. Abita vicino a casa mia, me. Un periodo facevo anche servizio ambulanza. Eravamo andati a San Simplicio, c'aveva l'ambulanza. Ambulanza della Croce Bianca, serologista io, a voi lo conosco Roberto Madrugoso, tanti anni fa, ti sto parlando del 78, 79, 80. Ma non era nel viale Portatore se la Croce Bianca? Era prima il Cavalcavia, dove c'era Giompina prima. Esatto, sì. E io. C'era io anche Gianfranco Baltimora, c'era. Ah, lo so. Cappa, io avevo 112 a Bartar quei tempi. Io gli avevo detto che volevo entrare, ma te no, bisogna essere esperti, chi su chi l'altro, mi aveva un po', diciamo, deluso, e allora non ci sono mai andato a chiedere. Ecco. Comunque le macchine camminavano un bel. La cupola c'è sirena che andava attaccavo senza Recci. Potente, quando passavo io con la sirena via l'Italia, le croce, via Napoli, via Mendola, Luigi mi mandava su pure le mani in capo. E sarà stata quella fiscio, quella che fa. No, poi faceva prima forte mi! Che macchina avevate? Il cappuccino della Peugeot! Avevamo, sembra che era la Peugeot e l'altra qual era? Non me la metto, c'è gli occhi da Roberto, non la metto più le macchine blu. La Peugeot io l'ho avuta la Croce Blu e camminava a me, era 1800 di cilindrata, cosa mi camminava? Sì. E chi mi rivolgo io attacco la sirena, io i pulciti lì, fermi tutti, che passa cavatappi. Oia. E vabbè dopo Gianfranco che aveva aperto, come si chiama, il polisoccorso, invece io ero andato alla Croce Blu, dopo ho fatto Avis e dopo il CISO. Io sono stato 17 anni facendo servizio ambulanza, non un anino. No, io ho fatto un annetto, mi sembra. Che poi trabaccavo e a casino, a tempo perso facevo capito. E vabbè, anche quello abbiamo fatto. Anche portare i giornali per Valte Diabolici. E lui l'avevo fatto per 6 mesi. Ma la notte mi veniva gli incubi, perché io mi coricavo dalla tappa mezzanotte a prendere il furgone, andare giù nei punti, prendere il furgone, andare una sardegna, caricare, partire, basta. Un casino già. L'ho fatto per 6 mesi, poi ho detto, guarda, non ce la faccio più. Mi venivano gli incubi, mi svegliavo gli 11, che mezzanotte mi devo partire. Cazzo di vita mi dice, ancora effetto. Ma tu facevi due lavori così. Cappa, prima santo e poi. Allora, prima santo io mi alzavo alle 5 e mezza del mattino, alle 6 e mezzo partivo, andavo a lavorare, ritornavo alle 5 e mezza di sera e il tempo di riposarmi un pochettino, mangiare al volo e poi riposarmi di nuovo, poi alzarmi e partivo di nuovo e facevo tutto il nord Sardegna, ci si apria, tu Olbia, insomma un casino. Oh, non si è stressarsi, non si è che lì succede anche incidenti di roba, ci succede anche cose, no. Lo fanno quando lavora a fare dei lavori così, dopo quello stressato devi guidare. Cappa, entravo, ma correndo poi ritorno, 6:20, 6:15 e da lì prendo la macchina mia e via a lavorare. Ho durato 6 mesi già, non ce l'ho fatta più, ho mollato. E chiaro, e quando ti riposavi? Riposavo quelle poche ore, insomma. Praticamente quando ci vado a lavorare arrivavo alle 6:30 a casa, mangiavo qualche boccone, mi coricavo, 11:30 ero già in terra, mezzo meno 4 e via, subito a prendere il furgone alle punti. Ma così non c'è vita, Tony. Guardi lì là ma non vai vita, perché avevo fatto tutte queste cose per un altro po' per l'altro. Sì, ma poi, già. Non le valeva la candela, capito? Insomma, quello che mi dava 700.000 lire, io prendevo già 2.100.000, più del santo fratello. E boh, sembrava, ma poi, insomma, quando stai tutta la settimana, già lo sai che il giornale è 7 su 7, e quindi il bello che devo andare pure in paese, anche Oschi, ripartendo, e glielo mettevi lì, ci c'era qualche paese che c'aveva anche la casetta con lucchette, c'era la chiave universale, entravo, aprivo, mettevo i giornali, chiudevo, insomma, tutti che tengo Sant'Antonio in Gallura, se mi facevo la zona industriale di Olbia, ne facevo le edicole, no già, basta, non voglio ricordarmelo. Ho preso una bella lettera di pure alle parti di dove qua paese del sughero, cavolo si chiama, non mi ricordo più, Merchita. Hai preso la lettera? Bella grande, sì. Io non so dove ci sono, una volta l'ho vista nella strada e mia moglie ha detto scalda la scalda, andiamo a zigzag, è la grande anche quella lì, e io sono passato, la macchina c'è dentro e l'ha messa. Ehi, lo so, ho visto a Sant'Antonio di Gallura, uscendo dal paese, questa lepre che mi sembrava più un cane che una lepre. Quando mi sono fermato con gli abbaglianti, l'ho guardata, era una vera lepre grande, così grande non l'ho mai visto già. Me l'ha già mai dato mai fermato, invece a accelerare è cazzingalla, poi anche lui si sbatte sotto la testa lo si alza. Niente, ha già fatto che se ne andava piano piano e dice ciao a me. E deve puntare il fare, poi suoni col clacson, lei salta e si sbatte la testa e... E che come toccare il collo buio. A te che mi sono chiamato. E oggi ti acciappali, Ehi già. Radio zero, solo bip finale. E cos'è? Non sei uscito in radio, solo il bip c'era. Perché ho schiacciato male, ho detto se ti trovano facendo queste cose, sono fatti due. E adesso entra Franco, dai, che era Franco. Ma bagava, ciao Gianni, ciao anche a Tonino, buonasera, dai, ben entrato, ben ascoltato. Ciao Fra, tu non avrai preso per l'ippi con il cazzo. No, io proprio che lo metti da Bagliati, ciao Franco. Con gli abbaglianti quando vai sopra lui, proprio in mezzo alla strada, lui non vede più la luce, come se solleva, smatta la testa, ormai è tramontito. Ho sono arrivato avanti a 2 metri. Vabbè, non te ne hai poche niente, dai, la differenza. 9,25 sì, radio 5. Ma ha cambiato qualcosa? Prima eri 9,10, sei a 9,25 qua. Va bene. Ah, dabbè, allora, dai. Non arriva oltre il Libia, oltre il vostro su di B. A me va arrivare 9,25 a picche guardi 9,30 qua. E io la lascio uscire alla Vettoli. Sì, lascia così. Sono andato altri 2 metri, ho sollevato, ne approfitto perché ho messo anche i tiranti nuovi, capito? Questa è proprio sagola, è bella grossa. La sì, mentre prima c'era quella fina che l'ho presa dai cinesi. La carezzai, non si via. Io mi metto quella fino alla sedere, andando pure. Ah, io ho preso poi da poco alla Lido, c'era un'offerta, 70 metri da sì, un rotolone, 8,90 euro. E poi ho preso l'altra, sempre da 4, 8,90 euro, però 160 metri. A proposito di Lido, l'avete visto che c'è un riso che stanno ritirando perché c'ha un veleno all'interno? Boh, che riso è? Non me lo ricordo, una marca che io non conoscevo, non me la ricordo. Comunque l'ho visto su internet, tu metti riso con veleno o roba del genere che faccia male, dai, metti così e ce lo dà. Sai quel riso che non si può c'è mai? Boh, comunque è riso, ma stanno comprando riso e chi fa il riso? Ah, io c'ho quello che avevo preso da... Beh, lo spicciolo sempre, ancora si è girato, manco ne ho cucinato ancora, fate conto. Ma io ogni volta che prima, quando devo cucinare il riso, prima lo lavo bene, mi tocco tutto l'amido. Pulato, praticamente è stato trattato con un acido che fa male alle persone, non c'è nulla di più, la vaga tu di biasi, se sarà assorbito l'acido lo lesci usino. Beh, vabbè. No, io c'è l'amido, io tocco l'amido e basta, però c'è quello che di solito è un riso che c'è sempre stato e la dietro, ma niente, grazie a Dio, non è mucca. Come ci fra? Capa, stavo provando questa di radio, come esce? Ebbene, che radio è? Questo è il coso, il Summer Camp. Nuova! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma Summer Camp di quelli che hanno la linea proprio grande. Un Summer Camp 23 canali. Ho capito. Va bene, sì. Si sente bene. E andava bene. Stavo a provare, ma stavo scendo, tutto lì, capito. Riesce bene, è forte anche. E lo sto pilotando con una Mebi più 4. Ma è valvolare? Capa di positivo. A me valvolari non piacciono, non perché si senta male, perché poi si scaricano le valvole, non le acciava più un casino di uso. E poi scalda un bel... Ma c'è una stazione base? E una stazione base, 23 valvolare. Tipo... le, guarda, tipo su lì, l'acqua, il coso, il costa, tipo quello lì. Oh, ho capito. E lo indirei acciappato. E me l'hanno regalato. Infatti mi ha detto, guarda se funziona, perché ce l'aveva sempre buttato in cantina. L'ho pulita e adesso l'ho provo. L'ho fatto scaldare prima, e questo se non scalda non esce. Ma lo so. E poi sei stato tutto troppo fermo. E lì già l'ho ragione. No, ma è tenuto bene, l'uomo nuovo. E c'ha... 23 canali, c'ha AM, HCB, USB e FM. No, ho capito, sì sì, ma sono dei belli apparati quelli. E il fatto che quelle valvole non si sa se si trovano, però come apparati sono belli. E quando si faccia da lui, tu sapeva, l'ho messo qua. Anche se è un barragione, è più grande, praticamente appena appena più grande di quello alimentatore, ma tu, che di quello alimentatore c'è il tu dai. Così, è così piccolo. È piccolo, cazzo piccolo. E la stazione base là. Ha messo l'alimentatore, ha messo il girato, 600. No, questo è 220, ma è più grande di quello alimentatore che c'è il tu. Com'è, nero o grigio? È nero e praticamente poi c'ha la cosa cromata, la basatura cromata, il frontalino. Quindi l'hai pulito anche dentro? Tutto pulito, tutto, è nuovo, nuovo, nuovo. Ah, certo, vuol dire che non c'ha un graffio, nuovo. Bene. Vabbè, si può modificare, se modifichi il quartz lo puoi portare anche a 40, volendo. Basta cambiare il quartz, non è un problema. Cosa farsi la quartiera fuori, come faceva Giulio? Giulio, vedete, a VAT 23 si aveva fatto la quartiera fuori, metteva quasi fuori e usava tutti i canali. Ma io lascio così, vabbè, non c'è mai nessuno al 40. Di solito vanno 12, 10, magari 23, capito? Però non c'è più nessuno in quei canali. Ma... adesso l'ho acceso giusto per provarlo, per come stava andando, tutto lì. Ma il 40 non è manco un canale che conviene, perché ci salgono le stazionali. Stazionali sul 40 va in picco. Allora, sul 40 io qua stazionaria non ne ho, neanche uno e uno, neanche si muove. Vabbè, io ne ho, sì, ce l'ho uno e uno. Io su tutti i canali, dall'1 al 40, con questa antenna non ne ho stazionaria, invece con l'altra voi 1,6, 1,8, 2,2, è la tua piena di acqua con l'antenna. Oh, la mia era giovanata, fra, eppure acqua ce n'era, è perfetta. Oh, quella mia era tutta allagata, era tutta pratica, cosa ne fai? Vabbè, forse volevo isolata meglio, ma cosa vuoi ti dico? Ma l'acqua, diciamo che filtra tutte le parti, capito? Eh beh, è quell'antenna, la fate girare, la vedo. Sì, no, è un animativo, o Tony. E un'altra in campagna, c'ho la... un'altra Midland. Ah, quella è vera, me l'avrei presa io, me l'avrei presa. Era di qua. La piazza a fianco alla mia. Comunque questa va bene, giovane, anzi. Ho giubilato la tutti due, va. Cosa? La tutti due l'ho giubilata io, che non ho già avuto l'una e l'altra, la rosella. Va. Quando si rompe ce la butto già, cosa me ne frega. Oh già, tutto saturo stai uscendo qui. Io saturo, se non c'è nulla attaccato. Ma come radio è troppo buono, va in saturazione sempre. O si trova vicino al microfono? Quello, perché l'ho messo vicino, là. Ma non c'ho niente attaccato, succede con l'apparato e buco. No, io sto parlando da... con la MB più 4, ce l'ho a... quasi a mezzo metro, dai. Ma io ho quel tipo di microfono nuovo che mi aveva detto Marco, che usciva ben bene, me l'ho comprato. E va la grande, se lo alzo qua. Se lo alzo magari già satura, lui già satura fa. No, però la voce rimane chiara, non è forte. Non è forte? Prova. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5. No, già va bene, c'è il volume basso. Ma ho fatto abbassare Luca perché c'era troppo forte, boh. E che microfono è da tavolo? No, è un microfono da palmo. Boh, non l'avevo mai sentito, è nuovo. È un tipo di microfono nuovo che hanno fatto da poco. Stavo dicendo, non è che ti capita qualche basetta, no? Cosa? Qualche basetta. Io ho due basette, me le ho tagliate stamattina. Basette d'antenna, sì, ce l'ho, ma c'ho l'antenna attaccata. Guarda, me l'ho regalato una Minox. Nuova, nuova, ma la basetta. Siccome io ho una basetta della Lemme, non so se va bene. Sì, dovrebbe andare bene. La Minox... la Minox va bene. Se va bene la basetta della Lem, uso quella. Io ho sempre quella piccola della macchina e spara bene. E anche io, quella che ho io, va bene l'antenna. Vado fuori, lontano, e mi sentono tutti. Vabbè, dai, se vai giù nella macchina, quella che volevi tu, quella piccolina con la carica centrale. Ti sto dicendo, da Stintino, mi stavo parlando con Tonino. Sì, ma Stintino, pensasse che è favorevole. Io parlavo con un antenino di cavolo dalla Panda, quando andavo a Stintino, dal cimitero di Stintino, perché andavamo lì a fare picnic vicino al cimitero. E praticamente parlavo da lì, mi sentivano tutti. Tony, quando ti arrivava a te da risotto? Prima a 7, poi sentivo 9. Per 7? Perché ero staccato, poi attaccato e arrivavo 9. Perché a risotto ti fanno entrare adesso? E ero preoccupato, qui c'è Giorgio già, sono andato a piccare. Ma sono andato alla parte di fuori però, non dentro. E stanno prendendo quegli orattivi. Però dentro il porticciolo quelle orate grosse. Io andavo con l'altarino lì, la sera un pesce che bigliava me, lui. C'era la barca del fratello, anche lì, perché orveggiata. Andavamo lì, ma a livello di coso, provavano barchette, questa roba qua, non roba grossa grossa, là, però locali belli. Già, stavi dicendo, parcheggiata, poi ti sei corretto subito, orveggiata. Sì, vabbè, può succedere, era un lapsus. In modo che paghi da sabato poi. Allora io devo dire già che l'ho visto io a questo. Io ero a parte di fuori. Questo qua ne aveva già 4 orate grosse dentro il retino. Già te beh, e mi queste solo ho preso. Cata 4 orate, ma orate però, a cozze intere. Stava pescando. Ma detto, ne ho perso anche una, oggi è andata a mare, perché di solito io ce ne prendo 5, 6. Non sei uscito già, Radio Zero Landia. Ho detto che se sei andato dove c'è quel muraglione, dove ci sono le barche ormeggiate, c'è il muraglione, lungo il muraglione, lì pescano anche in barracuda. La vita ha pigliato orati grossi, a cozze, altro che barracuda. Mi aveva 4, sto dicendo, guarda, oggi è andata male. Perché di solito ne prende 6, 7, ma tutte le ho viste io, Non è che sono male perché le ho viste ce l'avevo nel retino. Sì, ci credo. E basta andare. E non sai cosa fatti, perché io poi l'ho visto. Innesca le cozze nelle canne, le lancia, ma non lancia assai lontano, già lo sai che nel porticciolo è che puoi lanciare le lance, cioè va due canne da lancio, le ha lanciate, una volta che poi ha lanciato le canne ha schiacciato un bel po' di cozze e le ha buttate con la fionda, capito? E per bombeggiare, io lo facevo anche dove andavo io, facevo così, la prendevo, allora ci avevo il raschietto, quello che usava i muratori, raschiamo le cozze dal muro del muro e mettevo il coppo sotto e le prendevo. Oggi c'è qualcosa che non sta andando in quella radio, Ti sei abbassato di potenza e te ne sta andando, la radio sai va via ogni tanto. E come schiaccio male il coso, come schiaccio male il tasto, è duro il pulsante del microfono. Vabbè, controlla. Capito, Donì, così è. Beh, allora, io ho visto dalle 8 meno 10, io mi preparo un po' qualcosa a mettere sotto i dentucci, cari miei, perché è già tardi, tutti quanti sono giornali almeno. Vabbè, quando vogliamo organizzare, andare a pescare non c'è problema, dai, un fine settimana però sempre, il sabato mi va troppo bene, ok? Voi ce lo sapete, il numero c'è, abbiamo il telefono, ci chiamiamo, ci sentiamo e ci diamo appuntamento. Ok, buon proseguo, ciao Gianni, ciao Franco, saluta Lucia, ciao ciao. Ci vuole andare a pescare, c'ho tutto, c'ho tre salture, c'ho gli ami pronti, già nel sugolo, con i filaccioli, tutti i vani. Adesso cominciano le sepie e calamari, già. Io lo so, sì. Se riesco a andare nel posto mio, faccio strage in chivi, anche loro mi sbaglio biliardi. Oh, ma in quel posto, ma lì non ti fanno più entrare, capito? Lì non si può più entrare, già. Non ti fanno entrare, ti mandano via, capito il casino, ma... E allora lascio affondare, però io dirò che ho paura, perché un amico mio una volta è caduto giù, casse per poco non ci rimane, è caduto, è svenuto e aveva la testa a maglio nell'acqua, sentito. E si è malato nelle luci, e casse che mi ho di notte un casino, se sì lui da ammazzo. Io lo so che posto a sentito, però bisogna stare attenti. No, dove vado io è in piano, capito? Si prendono anche le seppie. Solo che devi lasciare la macchina su, il casino è quello, devi fare a piedi. Se vai dove dico io a Barai, quindi in mezzo ai calamari, perché ci va il marito di una mia collega, ma adesso che ne prende un bel... Va a Balai dove ci sono tutti quei buchetti nelle rocce. A Balai, la chiesa di Balai vicino, ce l'ha presente. Ho capito dove c'è la passerella e scendi giù. Esatto, si deve scendere giù e c'è il faro che illumina la chiesa, che illumina il mare, e lì ci vanno i calamari. Ah, ci sarei voluto andare da qualche sera. Non si può andare qualche sera. Io si può andare, io c'è tutto quanto, c'è anche pesca finta, c'è tutto. L'unica cosa che c'è che devo mettere la lenza nella canna, perché l'avevo smontata, perché la lenza aveva perso l'elasticità, c'avevo la febbre, quell'elastica, e ha perso l'elasticità, come avevo incucciato un melimuse, l'elasticità l'ha persa, capito? Ah, vai alla lenza, trovi la trubi la lenza, cioè ci sono lenze buone, ci sono lenze che costano di meno, dipende da quello che vuoi spendere. Io uso l'asso o Fendel. Allora la Fender costa sulle 13 sulle 12 costava da allora, da quando l'ho usato io, ora la prendevo l'attore, però più di 100 metri la Fender non le fa. Lo so, è perché che morire sulla pesca al caramale non va bene il coso, un 2005, un 3000, non di più, un anello vuole piccolo, non grande, il modello grande non va bene al caramale. Già lo so, infatti c'è un murinello piccolo per il calamare, a quattro sole è proprio piccolino, è bellino, c'è anche la canna piccola, due pezzi. Io faccio 3000 della Shimano con la frizione automatico ed è micidiale, ma va bene veramente, leggero, un bel mulinello, neanche lo senti girando. Come tocca il calamaro, la butti una pizza subito. Io della Shimano c'ho 7000 e 8000 mi pare. Poi c'ho tutta la serie dei Daiwa, l'Airbank c'ho il 4000, il 4500 e il 5500. Poi c'ho il full control della Michelin, poi c'ho un altro Michelin, poi c'ho un altro Shimano, doppia manovella, non so se li conosci, poi c'ho, ne ho un casino, Murire ne ho una marea. A me quelli che non mi piacciono sono quelli che usano in barca, quelli non mi piacciono. Ah, poi c'ho una canna da traino con mulinello della Daiwa e mulinello Daiwa lo stesso, la traina, ma quello non lo usi, quello devo usare in barca. Io in barca ho usato le canne elettriche, con un amico mio che c'ha validità, siamo andati in barca e c'aveva quattro canne elettriche, 1,5 milioni l'una le ha pagate. E non usa lenza, ma usa una specie di cavetto strano, ma le piccine che avevamo bigliato da di lui, sapeva tutto il posto, gli avevano detto, gli hanno dato la direzione dove andare verso Mosa, da Alghero, c'è il piccione che avevo bigliato, ma tutti i vanni. Vabbè, ma per morire li cortano casino, diciamo. Elettrici sono a casa, però non te la porta si da su proprio, te la porta quasi a pelo d'acqua e poi tu la devi coppare, capito? Già riconosco. E pare che sono morire da 12 volte. Sì, lavoro con la batteria. No, sono a batteria. E con quello lì c'è successa una cosa, fra. Se ci dicono i grilli, quando da Buni eravamo a largo, ma mettevo in moto e non girava più il motorino, cazzo. Vabbè, se non mette funzionare il motorino c'era la cordicella, no? A Buni e moto, no, questa qui era una stessa che aveva i motori interni proprio di quelli da 80 cavalli l'uno, una stessa, non so se lo conosci, è una pilottina. Col motore troppo. L'aveva comprata a seconda mano. E gli dico, ma ne hai chiavi qua? No, non c'ho niente. Ma sai cosa ho dovuto fare? Tu devi avere la chiave di casa, la tasca. Ho aperto la scatola della batteria, era tutta ossidata. Ho preso con la chiave, piano piano, tra, ho pulito, poi ho cercato di muovere un po' i cavi a buccia in moto, ho detto, prova a girare la chiave, a buccia in moto, lascia tutto così e passiamo. Aspetta, cosa aspetta, tre grandi, io vado in famiglia. Ti dà quella faccia un casino. Cioè ha comprato la marca seconda mano, è partito senza controllare, senza attrezzatura, senza nulla, capito? Uno si deve portare almeno qualche chiave, qualche cosa, se succede qualcosa al motore, non lo so, una bizza, vuole il mosuio, un cacciavite, non potevo smontare manco i mossetti perché non c'avevo chiavi. Li ho puliti con la chiave cazzo, che c'avevo in casa, ho raschiato i mossetti e c'aveva lucido bianco sopra, proprio tutto pieno. Perché ci vuole grasso marino nei mossetti delle batterie, sennò con la salsiccia si uscita, capito? È un casino. E dopo che l'ho preso tutto qua, ho provato a mettere in moto, non mettevo, allora ho mosso i cavi, ho mosso appena i cavi, come ho mosso un po' come ha raschiato, ho fatto corsa e ho messo in moto. Figurati! Voglio andare a Calamari, ne ho anche la Puglia qua, ma anche a Sempie mi piace, comunque lì stanno prendendo anche le spiagge le Sempie. Lo so, sì, nel posto dove vado a pescare, già mi è capito, lì c'è sabbia e roccia, e quindi lì ci dovrebbero essere. Sì, lo so, ma è sempre pieno, bisogna partire presto lì, capito, perché sennò è un casino, anche qualche calamaro prendi. I calamari mi hanno detto che andavano, ci sono quelle petroliere che si mettono, andavano in gommone, questi amici, sotto le petroliere che fanno luce e prendevano i calamari sotto le petroliere, proprio vicino alla petroliera. Sì, chiata, la figura gommone, come va? Come ti vai? Via. Camaro che c'ho io, c'ho un coso, un 2,5 metri, io, un tenderino, che lo volevo cambiare con una 3,50, infatti sono trattati con questo tipo, vedere. Ma tu gommone non ce l'hai? Ma è 2,5 metri quello che c'ho io, ma ci vuole almeno 3,5 metri, un 4 metri. Beh, che motore c'hai? Motore ne ho due, c'ho un 9,9, un 10 cavalli e uno ausiliario da 6 cavalli. Quelli Thompson. No, uno è dalla... uno è coso, va, un Johnson e l'altro è Mariner. Se sono funzionati i motori sono quelli che necessitano di più. Devi essere sicuro che vadano bene, che se non sarà mai un casino. Se che si lascia la macchina in strada, pigli e abbappigli, ma è male. Allora, quelli che ho io sono due orologi svizzeri. A parte che io ho metto sempre due motori, capito? Nel gommone. Non faccio mai con un motore solo. L'unica è, perché se uno non va c'è l'altro. attorno al Remi un po' gare più faticoso. Ma non penso il dubbio. Due motori, se non funziona uno attacco l'altro. Cosa è buonino in mezzo mare a cambiare candele, ma non penso il dubbio. E mai all'altro ci si a pescare col gommone? L'ho usato, questa estate l'ho usato. Ho buttato anche un paramentino, poi ho buttato delle bottiglie. Sono rimanere curati, anche lo mangiare non verranno più. No, e va. Se ruba dall'ambaci di separare dalle sorse, dice che le rubano un bel. Li ho buttati lì, infatti. Una l'ho recuperata, l'ho buttata più in alto, gli altri l'ho buttata in costa, in basso, dopo la, prima della seconda secca. E quelle tutte rubate. E l'altra che ho recuperato, quasi alla terza secca, lì c'era un pesce balestro. Non serve, non si può mangiare, è veleno. No, l'ho mangiato, è poco e buono, già, su di non serve. Secondo la stagione diventa velenoso, lo sapete? Andiamo, andiamo, cazzo. Già me l'hanno detto, già. Ciao Luca, buonasera. Positivo, cazzo, andiamo, andiamo, già, è vero? Cazzo, io ero cazzo. Vabbè, capito già, sì, è la stagione fa, se no non fa. E bisogna che domani mi apra la sacca e controlli se c'ho lenza, me la metto nella canna, tanto almeno mi ne ho tutti i casa la roba, io voglio andare a Seppio a Calabar, non li voglio spendere soldi di lascia in questo gruppo. Oh, ci spendevo troppi soldi fra io e bisogna qualche se scarpole mi riesca, non un azzurro, lasciamoli qui di atto. Boh, c'è vuoi provare Nicola. La Renicola è micidiale, quello che c'è un bel. Io ho sempre usato americano, qualche volta anche in bibi. E anche scordella ho usato. E l'americano è 8 euro la scatola, ce ne sono 5. Ecco, troppo, aiuta, sono esagerato il prezzo, 5 euro mi cazzo 6 euro o 7 euro. Quota negozio. Anche il bibi è buono, ma l'americano è il numero uno in assoluto. Qua l'esta migliore è l'americano e la cosa, la Renicola. Poi orate anche granchietti di sabbia. Ce ne sono 10 che buone. Sì, i granchietti vanno bene. C'è un amico mio che va, che si compra i bustoni dove ci sono i negozi che vendono roba surgelata, bustoni di gamberi piccoli. E lì se ne scongela un po' prima di andare a pescare, 2 pugni, 3 pugni, e li prende a bustoni da 3 kg, a 4 kg, non lo so quanto siano. Non li paga nemmeno tanto, e pesca la certi salaghi, cazzo, vanno a mare di furia. Già lo so, quelli congelati, i gamberetti congelati sono. Lo so, funziona, però le spettolette quella lì, oppure il cannoricchio. Però il cannoricchio deve essere fresco, anche se è congelato, non pigli nulla. Beh, fra l'altro che io il cannoricchio non sapevo che si poteva mangiare, pensavo che fosse solo un'esca, invece si mangia, e il ristorante io l'ho mangiato. Sapevo che è buono il cannoricchio, io gli apprezzavo, e vernaccia sopra. Io non l'avevo mai mangiato, l'ho assaggiato in ristorante, perché era un misto di frutti di mare, c'erano anche 3 o 4 cannolicchi in mezzo, e l'ho assaggiato uno, e sono veramente buoni. Lo credo, sono buoni. Luca. Ehi, come si dice, capo, se parli, ci cosa si conviene? Oh Luca, sto usando 23 canali valvolare della Sommercamp, stazione base 220. Bene va. Stai dando? No, me l'hanno regalato, lo stavo provando. E gli ho adattato le baby più 4. Va benissimo, fra, benissimo. Io ti non occupo di più nuda, manco maricattoli. Oh, nuda, non cosa vuol dire? Un PL, nuda. Ma che sono grudlato, non è più nessuno, ma... Ma vabbè, a me me l'hanno regalato, ma infatti l'ho pulito. Mi ha detto comunque funzionava, dice, quando c'erano i cantini. L'ho messo in funzione, dice, che funziona. E poi c'aveva lo stesso attacco delle baby più 4, capito? Aspetta, ho fatto lei. Ha capito già, c'aveva lo stesso attacco delle baby più 4. Probabilmente c'avevano i più 4 sopra, magari. Oppure erano lo stesso attacco, buttava a casa. quando vai io qui là se vuoi tutto aggiustare, dai, ci sentiamo. Ciao Franco, ciao Luca, ciao tutti gli ascoltori, quelli più per me. E anche io la chiudo che vado a fare altre cose, devo fare cose con tutti. Va bene, già, dai, ciao, buon carica, buon tutto, ce l'ascolto alle prossime. Ciao Luca, buon carica anche a te, una buona notte a tutti e due. Saluto eventuali eccetto più quelle che sono in ascolto. E per me QRT. Ciao a tutti. Ciao, ciao Franco. Ciao Franco, ciao Gianni, buona cena. Ciao Luca, ciao, prendi. Positivo cavallo, sei positivo, cavallo. Sotto Lucia, già vedi. Ciao Luca, tutto quattro che via, tutta la verde mia, prendi, che perché? Ciao.